prova, buonasera. Ma chi sei? Non ho capito. Chi sei? Sei Gio Maria. Chi sei? Gio Franco, sono Gio Maria, dammi il controllo. Va bene. Basso, quanto è il segnale? Le sto provando un'antenna. 7 il segnale, sì. Prima era più forte, no? Guarda adesso, 1, 2, 3, 4. No, sempre 6. Sempre 7. E adesso? Lo stesso. Aspetta, guarda adesso. No, non aumenta niente, sempre lo stesso. Non lo so. Hola. Franco. Giovanni. Fammi un controllo, com'è che è questa radio? Prova. 1, 2, 3, prova, avanti, com'è? Bella, va bene. Vabbè, lascio un attimino la portante se c'è qualche ronzio. Niente c'è. No, vabbè. Ok, grazie. Sto arrivando adesso, perché sono al piede. Ma il segnale è basso, Sei 7x7 o... Vabbè, ma la radio è buona, Che non ti preoccupare del segnale, Fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, sempre lo stesso. 7 sempre il segnale. Va, aumenta e diminuisce a 7, vai. 7, 1, 7. Ma non è che l'apparecchio tuyo? Questo è l'apparecchio mio. Che questo segna, questo è grande. Ma non è più attenuato? No. Vabbè, lascio così, là. E questo è proprio la antenna del di fuori, là. Ma prima più forte arrivava. Mi sembrava, non mi ricordo. È perché ho cambiato apparecchio per quello adesso. Capito? Magari con questo è più sincero il segnale, capito? Poi comunque gli altri già lo sai che possono variare, là. Infatti sicuramente è quello lì il problema. Già andato io la soluzione. Infatti la radio, è importante che sia buona la radio, poi per il resto l'importante è la radio, capito? Che mi interessa, se va bene. La radio è buona comunque, sì. La radio è perfetta, va benissimo. E infatti quello che conta è la radio, il segnale ce ne fa benedire, capito? E infatti lo lascio così, dai, già va bene. Cava. Hola! E chi? Buonasera. Il PL ci sta sistemando. E io già l'ho fatto. Ammazza ce l'ha vita, soldato male. Prova a vedere. Santiago 7, segnale 7, radio buono. No, più basso era. E più alto eri di segnale. Era quasi 9. Dovresti sollevarla molto di più. Se disturbi allora no. Io venne la sala Russia allora. E infatti, sul tetto almeno. Devi sollevare almeno un paio di metri più su delle antenne televisioni. Infatti è così. Perché bisogna un pochettino tenerle più lontano. Dai televisioni non penso che disturbino questi televisioni nuovi. Vabbè, ma c'ha il coso, c'ha il... metto mi stesi già a mani. Non c'è il decoder, i decoder sono nuovi, quindi non dovrebbero disturbare. Allora la televisione non si più. Aspetta un attimino che se deve essere qualcuno avanti che vuole entrare. Gian Mari, sei basso, come ti mai? Ma io non sono stato mai alto. Io sono nato così, mezzo nano. Basso di radio però me. Basta di là. Ma se comincia a nazza. Se va a chiesa adesso. Bisogna essere lì. Andiamo, buonasera comunque. Mi pare che sia Franco. Così è. Allora già giù in Ciao Maria, c'è Franco. Già lo so, pensavo che dovevamo parlare di insieme poco fa. aspetta la portante adesso che ho cambiato fra. 6 a 8, 6 a 8, io qua è aumentato, adesso è 9. A me mi sono rivenuto. Sì, sempre 9 adesso, sempre 9. Così che lascialo così, va bene. Vai a va bene, il segnale è buono, 9. Dovrei pretendere troppo. Dottore, più lontano, chiaro che l'arrivi 8. Io sono più vicino, arrivi 9, dai. È sempre lo stesso il segnale, 8 stai arrivando. Beh, è bacchiglio. Ma non è messo così basso, Gianmarì? Basso sono, cosa ti so dire? No, l'ho sotto. Bravo, passo so. Santiago 5, addirittura. Aspetta, vediamo. Aspetta, no, riprendete voi che metta, che guardo un po'. Ah. Ti piangini. Infatti. Così, molte cose ti fanno vedere, però. Io guardo quello di cosa di Sky 811, ti hanno tutto di pesca. Vabbè, Don Benissimo, ma Baido, molti programmi. Su YouTube ho un bel voce. Se carica già la batteria ti dice arrivederci. E adesso attore, 1, 2, 3, prova, avanti, è tutto. A me il segnale è forte da me, però la radio è sempre bassa. La radio è sempre bassa. Aspetta, vediamo un po'. Vedo un po' adesso. Adesso è aumentato un pochino. Perché ho aumentato il Mikey Game, capito? E tu hai aumentato adesso, sei 9-1, 9-2. Dovresti saldarlo bene, dovresti saldarlo. Non scaldarlo molto, perché se sorrisce di plastica scaldano troppo e si staccano pure. Ma da 7 a 9 sì, frate. Adesso sì, da 7 a 9. A 9 sì adesso. Mi devi fusare a becco me. Basta andare a comprarti un uovo. Ancora basta, No, già va bene adesso, va bene. Vabbè, allora, meglio così. Ok, capito, fra. Fusare a becco, vai a comprare il dino, ve la vedi che c'è da buio. Già va bene, lascia così, dai. Adesso va benissimo. Va benissimo così. Guardatemi, Gianmarì, quel microfono. L'ha già bandato sul microfono, sul coso, su eBay. C'è? C'è l'originale suo, che con la scritta rossa. E costa 12,90 € più 5,90 € di spedizione. Allora infatti, che basta un girasiro tranquillo. E sai, gira, perché già 2 mesi e più si trova, vado a chi tu paese, a chi da persona, che c'ha fuglione e basta. Ma se io ti do un apparato, un microfono originale, è tutto quanto per un vai in Parì. Ma lo sa, è già un giapponese, ma è detto, come ti piace forse? Basta comprarsi un uomo ed è tranquillo, cazzo. Tanto se da mille uomo mi pare che sia la capacità di Ciappari, di questo microfono. Anche io da 800 va bene, però a Ciappari è che con un microfono originale io penso che funzionerà bene. A te deve funzionare bene il microfono originale, 8. Deve funzionare bene, non puoi pretendere che sia come un preamplificato, è un microfono normale, ma è per cui la radio è buono, capito? Funziona bene la capsula, non va problemi più, tutti gli dietro. E inutile uno se ti vuoi, c'è così, gira e ti gira, non andare. Infatti. Che cosa va a me, adesso non entra, ve lo dico, si può ordinare via per l'ordineggio. C'ho il 497 che io, dice che funziona bene con il microfono suo, io me ne metto un altro, quello della Fayette va bene ugualmente, per dirti no. anche quello va benissimo lo stesso. Mo. E beh, Frank sei, parato sì. Piglierà mossi. Franco, piglierà mossi, bigliaro. Voglio risparmiare soldini, e dopo se ne vuole di più. Fai bene. Fai bene. Beh, anche quei bianchi fanno bene, mi. Bastano bruciare, cazzo di esagenti. Capito? Bastano bruciare, fanno bene anche quelli. Infatti, quelli bianchi sono... Bisogna stare attenti a non bruciare troppo. Anche agli ludru, perché sennò... si scioglie la gomma. È plastica, si può, magari si distacca dall'elemento centrale e a vizzente può girare, capito? Può girare e gira, si può pur disagiare il polo caldo, capito? Gira tutto, ma bisogna fare così, bisogna fare. Allora poi la saldatrice a saldarlo, vero? Non si distacca più fra. Ma io ce l'ho in bacchinice, ce l'ho anche. Quei bianchi vanno bene ugualmente, cazzo di qua. L'importante è quando si saldano che non farlo riscaldare, cosa? E rimangono sempre perfetti, capito? Infatti, rimangono sempre perfetti, rimangono. Quindi andiamo per così. Vediamo un po' se c'è la macchina, attento c'è la macchina. Quando mi lasci entrare ancora? Non lasci ancora con la zappa in mano, senza la serra. No, sicuramente c'è la segna a pulire la macchina in garage. Può essere anche. Davide, vuoi pulire la macchina, ma qui sia la macchina di Gesù. 7,5, 7,10 lo troviamo. Va bene che lui fa le cose ben fatte, piano piano, Forse per quello. Un pezzo entra adesso, un pezzo entra dopo, ci passa un'oretta. Infatti è così. Ah sì. Dove si è andato oggi? A nessun luogo. Non sono andato a nessun luogo. Sono venuto in oggi. Devi arrivare la macchina. E l'officina invece mi ha telefonato di una regala, a chi va via le due macchine in Altaro Monte. Non mi sono arrivati dei ripeti, quindi per oggi non potevo fare nulla. Non c'è pizza cosa dovrebbe fare, infatti. È normale, no? Però chi sei? Cosa che facciamo? Farà ad esempio, Franco. No, deve darsi a contenere un BL, Giomari. Oh, è bravo, Come tecnico è bravo, Beh, ma ha cambiato il potenziometro dei canali per la Fayette, del Texas. E a chi l'hai fasciato? Guarda che ci sono un sacco di denti per saldare quei. Poi sono piccolini. Una mattina si è messo, non c'ero io davanti, ha distaccato il vecchio, ne avevo un altro nuovo, gli ha attaccato, bene saldato, e ancora sta funzionando quell'apparecchio, quello che c'è in magazzino. Il comunicatore me l'ha messo lui, ma ha fatto le saldature, guarda che ci vuole fare, io ripeto, non ci riuscito a fare una cosa del genere, lui ci è riuscito. Se c'è un saldatore buono. E piano piano ti metti e riesci a farlo. Ma se lui c'ha pazienza, ha fatto bene, vuol dire, il lavoro. Oh no, un bel di cose fa, un bel di cose fa. Ma a me me l'ha fatto, per cui ha dato bene. Per cui dico che... poi quell'apparecchio che c'era, ce l'avevo io e non mi funzionava più. Lo do a lui, un'oretta l'ha messo a posto. Vuol dire che già è bravo, ha fatto tutto. Solo che non è bravo, quando vai a fare di campagna mi ha buccato tutti i bidoncini di plastica con la carabina. Però ci trovi fare più tu, che fa il motivo. Se puoi aggiungare, no. Allora, il tiripidone mi ha stampato, ragazzi. Roba da pazzi. Tra chi sei? Ehi, c'hai fresco. E allora fulmini. Se sta carabina puoi farà, ma quella carabina puoi fare più qui in campagna mia. Ma tu te ne immagini, dito? Beh, arrasse persona, ma sono stati altre cose, quindi si arrivano le caccia. Ce n'ho verato, Gian Maria. Ce n'ho verato, al manco di bidoni. No, vado a pazzi. Caccia, ehi. Ehi. Mi farà più un bel mio, per un certo periodo era mi sentito tornì a fare un po' di macello agli ossi. Ah beh, oggi bruciato hai. Ah? Sei bruciato in campagna oggi. No, dovevo scendere a bruciare sto. Ma no, ha piovuto ieri notte, come fa? La roba bagnata non si può bruciare, si fa di fumo e basta. No, no, adesso se non piove stanotte, e domani adesso vediamo un po'. Infatti, ieri notte ha piovuto sì, ma proprio la metà imbarriata aveva. Mi ha fatto verso le 4 e mezzo, 5 però A quell'ora lì ha piovuto. Poi io a quell'ora mi sono alzato, stava piovendo, sono entrato in bagno ed era vendeva, ha detto vendeva. Io mi sono alzato, ho preso, io dovevo mettere alle 8 giù, invece troppo mi sono cazzato, gli ho fatto colazione, mi sono comprato parata, ho visto l'aria, poi mi sono affacciato tutto in fuso, e questa cosa va bene, allora ci sono quanto e non ci siamo parati, capito? Fatto bene. Fra un po' tu sei. Ah, aspetta che andavo a fusare a pigliarsi l'ubiele in battilite, così è fra. Ma devi acconsegni. Vai, vai. A che mi pare che su sta parecchio, si rompe il microfono non funziona. Così è fra. Evidentemente è il vaffanato là. Andiamo vai, andiamo. E beh, penso che andiamo da qua, beh anda la radio. Perfetta. Era basso perché era appena acceso, so. E poi ma anche ieri c'era sempre basso io, capito? Adesso l'ho aumentato. E questo c'è il microfono normale, capito? Non è amplificato. Infatti. È così. Allora in bicicletta oggi lo vi sei uscito, no? Oh, no, io sono continuato a finirmi dei pezzi del carrello che devo usarli quando ho fatto la revisione, che devo cambiare tutta la parte frenante. Ah, e non l'hai fatta ancora? Già sei due freni, non so. No, fatta è fatta, è a posto adesso. Faccio soltanto che mi viene ancora, non mi ha fatto la secca di ferro, quindi domani mangiamo mi vernice giù chi saveccia. In caso il bongo chi sa il bongo. Vabbè, ce l'hai, mettere quella proprio, ed è a posto. Mi metto la vecchia provvisoriamente, se ne canto sta già a fammira. E poi guardo a vedere più che altro. Sanno me la base la giambo. Ehi, ehi. Ecco, sta per voi assaggiare il suo piede. Vuol dire che le penna a nuvo. Ah, se si lamenta che lo si ammazza, non lo si scioglie. Andiamo, andiamo. Che tu mi dica anch'io. Andiamo peggio. Bubu. Oh, ya. Freschi sì. Oh, e noi c'è una posizione buona. Cazzo, in alto, Atta. Con la macchia fa dappertutto, fa lui lì, è in un punto molto alto al monte. Ciao Mario, chi è? Cosa? Chi è? Con chi stai parlando? A te la giudizia, a te lo disvedi, a tu chi fa una posizione buona a Franco dove abita. Ma invece che è basso, dove che, per, che disturba una persona, disturba. Già credo, il dipolo. Il dipolo è brutto così, Insomma, aspetta che mi dai un controllino, che è proprio un microfono in quello nuovo, a vedere. Prova. Fa un passaggio, 926, 93, quel tic positivo, va benissimo. Insomma, stava minuto. E com'è adesso questa, la radio? Questa rimane più bassa, la radio, Perché sto provando un altro microfono, ed è quello nuovo. È bassa la radio, Bravo, confermi. Questo c'ha un microfono che è alimentato dentro, con un alimentatore di microfono. Sto provando questa a vedere. Vedo che fai questa che del microfono preamplificato. Il segnale è buono, però la radio è bassa. Quella di prima c'era più alta. E si dà una voce, ragazza. Devo morire, la bancarella deve morire a 25. Allora, cazzo, sa. Non devo più nessuno, no. Quella avevo io. No, va benissimo l'apparecchio. Però, fra, non è 4 watt, quello lì è 7 watt, se non mi sbaglio. Tu sei con di polo, è anche troppo, fra. Va bene, fra. Abusa. Anche di subito qualcuno li fa. Fra, hai fatto bene, dai. Ma anch'io avevo dei problemi quel periodo scorso, io. Avevo sempre problemi. Per cui, infatti, l'ho portata giù, abbiamo cambiato il carro, abbiamo allargato la fascetta perché era 5 centimetri. La prima mandorla no, era alla distanza 5 cm, invece l'altro tipo, l'ultimo tipo era 7 cm. Ecco perché avevo sempre stazionarie, per quel motivo fra. Invece adesso abbiamo regolato a 7 cm e più abbiamo cambiato il cavo ed è appena uno di stazionarie. Cazzo. No, io disturbavo anche da me, capito? E se ti disturbavo da me, senz'altro disturbava qualche null'altra. Ti ricordi che io ti ho dato quell'antenna, come si chiama? La Boomer ti ho dato, no? Ma non è piazzata quella? Fra, io disturbavo con quella, entravo. Cazzo, allora l'ho dovuta togliere per quel motivo, cazzo, fra. No. Adesso sono tranquillo, fra. Vuol dire che bastava invertire la polarità a girarlo e dovevi provare così a vedere. Perché quell'antenna lì su, boh. Come si dica, da me disturbavo, me l'ha buttata giù per quel motivo, è nuova con l'antenna, già l'hai visto. Come si dica, fra, cazzo, tramenti, è già passato da sopra a fare il travaglio. Cosa ti senti, cazzo, pare con questa, sento che tiro la Sirio, cazzo, ho usato un tipo d'antenna che ce ne fa. Io ci avrei piazzato una di quelle, perché prima cazzo, andava bene quando era sul tetto, capito? Allora sei tranquilla, è come in campagna mia, cazzo, non disturba nessuno, solo a me disturbavo qualche volta, capito? Per cui è l'unica quella lì, fra. Si compra l'antenna come si deve, se la piazzi, e non fai più problema, capito? E qua ti lascio un antennino quando sei qua, la zona è buona, per cui va bene. Sore! Sei a Gianmarì, adesso basso sono. Adesso sei tu. È il microfono originale di quello nuovo, M. Faccia così che questo va bene, so. Il suo va benissimo. Sì, sto adoperando quello nuovo, sto adoperando. Cazzo. Chi si deve adoperare quello lì, cazzo? Se no è stato qui, sta, con questi preati, capito? Che funziona, non funziona, là ce l'hai nuovo, là c'è quello, e altro per quella chiacchierata che facciamo la sera va bene, capito? Magari quell'altro se lo porta in campagna o se lo mette in macchina, boh. Ah, non risolvono, boh, non so nulla. Se vuole ordinarlo, glielo ordino. Ma sai che mi... Io ho visto, ce ne sono due, ce ne sono, anzi tre. Lui dice 90 più 5 euro e 90 di spedizione. Ok. Anda bene, riprendi fra. Ce l'ha e non gli va bene. Ce l'ha, non va bene neanche quello. Ci vuole il suo originale. Che l'ha provato e non fa, esce di portante solo. Ci vuole il suo originale, ci vuole, per uscire bene. E boh, non lo so fa. Io vaggio le radio che vaggio, ho alcuni microfoni e vanno tutti bene, anche Burusi e Sivas andano tutti bene. E lui è il 34S, hai capito? E ci vuole l'originale suo in quel microfono, in quell'apparato. Fintech 34S. Quello con Mike Gaines, invece l'altro tipo ha senza Mike Gaines, mi sembra fra. A me me l'ha fatto una volta un apparecchio, non sono riuscito a metterlo a punto. Non mi ricordo. Ma dacci che era quello che c'ha Franco, mi sembra. E non sono riuscito a farlo funzionare il vostro microfono. Mi prendo per il cazzo. Invece il suo era un bombo. Non mi ricordo bene se era quello che c'ha Franco oppure un altro, non mi ricordo bene. Niente, c'è gli apparecchi, due fili vanno attaccati insieme, capito? Se sono quattro, con tre devono funzionare, con tre fili devono funzionare. Così è fra. Sì, dai un colpo. Ah? Ma chi io ci vedo, Giamelli? Ancora, se c'è quattro pezzi che è arrivato. Ma chi io? Quello mio è dentro la scatola, sto. Chi lo tocca? C'è gli altri due, ragazzi. Cosa fai a prendere 50 in alto, capito? Bene. L'ho tolto, ragazzi. Va benissimo, va. Già funziona uno e l'altro. Ma questo funziona bene, io ti sento bene, perfetto. Cazzo, è come un microfono normale, no? Però la radio è perfetta, pulita, cosa vuoi pretendere? Ma chi se mi sembra che sia più basso, Non penso. Vabbè che io sono più libero di lui. Oh, come radio, già ieri stavo usando quello lì, quello nuovo, era perfetta la radio, era lui. Anch'io l'ho sentito, infatti, che era perfetta. Però da voi sarà a Ciabani. E andava così. Allora avrà, vedi i panettina da Lampazzi, e allora se sono quelli che fanno la pubblicità, sono sponsorizzati, e azioni tutto ridargini, e infatti, la pubblicità, che è Isa, anche solo cosa, sul canale di Sky, 811, ti danno lì, ti danno anche, e già sono loro. Già sono loro, li danno anche in diretta sul coso del canale di Sky 811. Fai bene. Mi è andato bisogno a baidarli. Io mi mongo qualche di che non si può venire nulla, mi mongo e mi a baidare. Però che non fanno il monoi a picca. bisogna andare qualche di. E dove? Ma qua è quello di 50, numero 59, il canale numero 59. Lì ce ne sono, non come qua, qua non trovo nemmeno pietre. Lì ci sono i pesci di tutti i tipi, là dice ognuno. Certo c'hanno l'esperienza mia, no? Sono l'esperienza tua. Quelli sono nati pescando, per cui ce n'è uno veramente bravo che va da una nazione all'altra proprio per questo motivo, capito? E poi li prendono e li scappano. E lo hanno fatto vedere anche la settimana scorsa. a Cosma, erano a Tafolara, in quella zona di Tafolara, capito? Cazzo, mi hanno beccato un po', un ognuno, fra, non ti dico niente, cazzo, e quasi era più maturutetto, cazzo, un ognuno, io non riesci a pigliare in mano, cazzo, è tu era loco, è grosso poi, è abbracciato, cazzo, ogni mostro, cazzo, e sanno, è di mestiere quelli che sono, capito? Infatti fanno campionati questi qua, e infatti, poi non parliamo nell'Alaska lì, che sono i salmoni, e di tutto, le razze, cazzo, a quintali le razze, cazzo, beh, qua non le trovi, roba grossa come quella zona, capito? Beh, la licenza ci vuole, penso, e penso la licenza nostra non vale lì, allora vale la pena, da. Allora ti portiamo un muratore. Aglio. Vero so, ti portiamo a te pure, perché tu devi fare un commore, per cui carichiamo e partiamo. Vabbè, ma non tutti se lo possono permettere, fra. Noi siamo un po' parenti, siamo. Tu sei orere, cazzo, tu sei la fusti. Tu hai fatto il 13 all'8. Fai bene, fra. La vita è bella, finché giù, farsela godere, cazzo. Ah, ci serve una bicicletta, mica la sto vendendo io. Elettrica è, cazzo. Cazzo, fate 45 km di ogni carica, fra. C'ha le luci, le frecce, il clacson, lo stop, c'ha tutto, il bauletto, c'ha anche il testino. La sto vendendo, perché non ci arrivo, fra. Non ci arrivo, quando mi fermo devo mettere il piede in terra, non ci arrivo. Mi sono occupato con il pezzista rapo, e per cui la sto vendendo e me ne compro uno che abbia la batteria più bassa, perché la batteria sarà sotto il sedile, così che il sedile non abbassa più tanto perché c'è il sedile, capito? È nuova, amica mia, nuova, se la vedi, Vittorio l'ha vista, è bellissima, è tutta attrezzata, è come una moto, è 400 euro la sto dando. Così che se la vuoi garantita, due ore ha camminato solo quella bicicletta, 2 ore, è tutta coperta in magazzino, e per cui la sto dando perché me ne prendo un'altra che abbia la batteria più bassa, capito? In modo che si dire, si abbassi almeno ci arrivo quando mi fermo, capito? Invece con questo io sono andato a fermarmi e non ci arrivo a buttare a terra, e per cui questo l'ho preciso là, ma così si può fare a due io. Se non mi piace a me non ne voglio, devo questa mi è piaciuta perché è bella, troppo bella, è sportiva la mia, bella, sto succedendo, però la mia è da donna, però è attrezzata, c'ha tutto, e poi è nuova, capito? C'era un annetto, ma ripeto, si è camminato 2 o 3 ore, anche troppo, e basta, se siete fermi in magazzino. Perché no? Basta passare e te la faccio vedere, e la puoi pure anche provare dietro qua. Che te lo sto dicendo, se la vedi ti piace quella bicicletta perché è troppo bella, diglielo tu. Se c'è una signora ti va benissimo. Io questa, guarda, costa 600, quasi 700 euro precisa, se tu guardi è precisa, 700 rotti euro. Ma io, siccome già lo sa che è usata, la contiamo come usata, però è nuova la bicicletta, non ha camminato. Mi danno 400 euro la do, e adesso la metto sul D, la metto e vediamo un po', capito? Perché se va bene me ne prendo una che, e l'ho vista già che c'è la batteria più corta e se lì la abbassa tutto, e per cui ci arrivo allora, capito? Se no mi faccio male anche lì, capito? No, lo sto usando proprio per quello, perché non ci arriva, non la basta perché c'è la batteria, capito? È la marca Olmo, mi sembra che sia la marca Olmo, è per due, ce la sto dicendo, se tu la vedi ti piace veramente questa biglietta. Adesso l'ho comprato anche il copritutto, l'ho coperta tutta quanta, è sempre il magazzino ferma, e per cui non la tolgo perché non ho paura, capito, tutta. Un attimo, ecco, siamo sì, beh, è sempre carica, quando ce l'ho è sempre carica. L'ho tolta anche avanti, così l'ho tolta fuori, e l'ho provata e ho visto che è buonissima. E poi c'è il caricabatteria, c'ho tutta l'attrezzatura, perché me l'hanno dato anche il caricabatteria, capito? Ma ho la batteria, ma è nuova che sono da poco, frate, è poco, da poco ce l'ho io, che è nuova la batteria, non si scarica facilmente, è carica, perché non è se l'ho usata. Perché c'è coricato in terra, lui, buonasera. Ecco perché Mazio, perché coricato per terra. Caso Mario, basta un passo, tu arrivano, con l'antennino, Vabbè, io sono l'antennino e sono qui. Ciao Mario! Io mi sto allontanando, stanno a prendere la signora, ci sentiamo dopo se arrivo presto. Ok, ciao Luca. Ci sentiamo dopo, fra. D'accordo, d'accordo, Luca, ciao. Non lo senti a lui. Anche lui è terra a terra, Vicenza, dai. Anche lui è condizioni. Ah, se tu sei in condizione più buona di Luca, Oh Luca, come lo senti? Fatto parto, Mario. Fra, sollevati, metti sulla sede almeno, attenzione da terra. Allora fai bene, fra. Non ti preoccupare, fregatene, no. Non aumentare niente, lascia tutto così, allora che sempre meglio, dai. Vabbè, Franco, mi senti? Guarda se mi senti adesso, 1, 2, 3, prova. E basta, che io ti ascolto, ma ti ascolto bene, dai, non ho QRS. Ecco, vado avanti, Dio Maria, non è piove. Carità, cazzo, dovevamo scendere. Non ci siamo potuti scendere oggi, perché abbiamo tutti ieri notte. Io ho visto che era bello bagnato, va. Volevo andare a Lumarte, ma poi... Ma adesso cominciano a essere un po' magre, perché mettono l'uovo, si nascondono adesso, adesso però, sai com'è, vedo un po' tu. No, Giovanni, no, c'è buona adesso, allora, le uova le ha caricate. Ah, va, è bella grassa, altro che, ne ha fatto un amico l'altro giorno, di quei l'ultimo, ne ha fatto un certo qua, ma belle pesanti, belle grosse. Benvenuti, perché adesso cominciano a ritirarsi loro, a mettere le uova, capito? E loro dimagriscono, forse privatamente ancora quelli lì, in quella zona magari, ancora sono buone. La Monza esce, avanti la Monza! Già lo so, bravo, cosa vai? Vabbè, ma sto pari e puzza. Ah, perché se avete tutto assieme è buono, invece quello di... Io ho 3-4 cassette, quando vado a fare l'umacchio, le dico, questa una parte è l'umacconi, l'altra parte è l'umacchio, non sono fatti, io ho buono. Io sono andato invece a Piazza dei Segni, non mi sono nemmeno sporcato né bagnato, e me le sono comprate e me le sono mangiate con le patate. Giovanni, vabbè, noi ci facciamo anche una bella passeggiata. Vabbè, certo che... Ah, sei giovane, tu puoi andare tranquillo, io... Catta che mi ha messo rimasto giù di rimasto di brida. Cagli subito, visto che è meglio non andare mai. Ma prima andavo, prima ci andavo molto spesso, per cui non mi mancavano mai i tempi delle loro macchine. Però adesso no, che ci fa? Non saranno, non ce la faccio più. Quando mi vado io da 70, 3 anni, non fa quasi. Ti ripeto che ce la qua, per camminare, diciamo, tranquilli. Ma tutti uguali, non siamo fuori, capito? Io già lo sai cosa ho avuto, per cui già lo sai cosa, in che condizione sono io, non lo posso fare più. Prima lo facevo, magari quella persona è tranquilla, e è meglio che sia tranquilla lui, capito? Perché? Allora, stracco se farò da cadria. O a mettere di la gioca e va. Sicuramente. La punta di la gioca. E allora. Franco, a telefoni. A telefoni che per quello è capito. Capito lui. Lui se ne va in campagna lì a, in quel punto dove abita lui, a zona di Lumacchi, per cui ha le trova. Ecco perché ce l'ha nel postetto lui. Ma va, avanti più con commento, buono mio frano, va di due con commento. E tu dove ti vai? No. Non lo conosci? No, non mi fido. Fai bene, meglio essere. Vabbè, uno magari il freddo può li fa vedere prima di tirarsi. Sai com'è, però meglio essere tranquilli. Ma magari per il freddo, magari fanno roba velota, mi arresto. Ah, così? No, non mi fido, non mi carino. Ah, so che ha già, Giorgia, Lumaccuni, Lumacce, Pausa, Lumacchini, Maga. Una volta che andava a funghi, mi mettevo i piedi, passavo gli altri e raccoglievano. Se vuoi immaginare cosa non mi direi, io non vado mai a Cucumito. Asparagi? Ma che è asparagi? No, ma che io asparagi non ci sono andato mai. Qualche volta è capitato in una parte di campagna mia, ma poche niente, capito? Però intanto. Ah, sai che non ancora in freezer io di questi asparagi. L'altro giorno stavamo per fucilarli. E ne abbiamo un poco, l'abbiamo in prima. Poi, domani, poi. E poi lo sappiamo, sono disinfettanti anche. Quella roba, sono disinfettanti anche, capito? Io non ne ho, io siamo lì, non abbiamo mangiato. Questo è buonissimo. Aspetta, fatta sotto pure con gli spaghetti. Ci vuole gli spaghetti e piacciono. Sa che mi dice un bel però, anche se viene poco, no? A me piace che mi dice un bel. A me piace un bel. Basta, la parola c'è panna e ma che? Pare c'è pancetta, affumicata e ha quel sapore veramente buonissimo. Tra chi sei? Ok, la fuma ancora. Boh, io pensavo che fece un burro lì e lui si fuma. Boh. Va bene, vai pure, vai. Non so che io. Ah, è pendentina a casa. Capri un passo fa. Quando, beh, un patrimonio, mi fanno un punto adesso. Adesso. Come, allora, hanno messo tantissimi. Boh. Quando ero ragazzo io, mi vendevo anche spuse così. Con 100 lire. Che uscivano, mi sembra 12 o 13 e mi bastava tutto il giorno. Costavano peggio, ma 5,50 la salute. Sì, che è meglio non fumare. Sì. Bisogna mangiare solo e basta, le sigarette già non ce la fanno. Se prendo un pacchetto di sigarette è meglio un piatto di pasta asciutta e fa più bene. Ma preferisco la macchina, se la vogliamo dire. Poi parliamo con la mortadella. Anche, allora meglio mangiare che fumare. Va bene lui, ci sentiamo dopo che mi assento, dai. Ok, ci sentiamo dopo eventualmente. No, io vado a mangiare, la frutta, dai, domani. Io credo Bacchina. Grazie, a pasta forno lui. Qualcuno è entrato. Sarà Bacchisio, Bacchi tu sì. Ma io ho detto di chiudere Baracchini, che ora di mangiare, buonasera. Ah, tutto sbranato, sì, buonasera, avanti. Come sta andando? Sì, no, tu sì. L'ho appena acceso, E ho un po' di rumore di alternata. È per quello, lascio scaldare un pochettino che dopo va più. Oh, già riesco a capirti. Però do perfettamente, perché è fredda ancora. Va bene, dai. Ciao Luca. Sì, no. No, Giovanni, non posso mai anticipare al forno. facciamo si fa sabato e domenica e possiamo passare il tempo. Beh, io ho pensato che se n'era avanzata da domenica, ecco, beh, stanotte se quello che ci ha avanzato domenica se la mangia, sta a scalda se la mangia, invece non è così, là, mi sono sbagliato, vai ti. No, sono entrato per vedere, perché ho fatto una riparazione a un alimentatore, Giomarì. Volevo vedere se lo teneva, che mi si è scoppiato quel switching cinese. Oh, scoppiato addirittura, caccia. E che alimentatore stai usando adesso? Ehi, vabbè, adesso è un 25, boh, diciamo, quello del PS50 collegato. Ma adesso mi sembra più chiara la radio, ti sta andando più chiara lentamente come sta saldando oggi? No, vabbè, era l'altro che l'ho collegato, 25 ampere, ho collegato le altre radio, dai, quelle che ho solitamente in ascolto, questo è il suo originale, perché l'ho appena accesa, Giovanni. Volevo salutarvi, quindi ho fatto una cosa un po' veloce. Ma sta andando bene, va. Sta andando bene, sì, stavo chiudendo. Dai, ci sentiamo più. Sì. Buon proseguimento, saluto di casa, saluto una quella persona. Ci sono da pere che non lo vedo. Dai, ci sentiamo, sì. Dai, lui, riprendi tu, io chiudo momentaneo, magari eventualmente fra 10 minuti rientro se ci sente, ok? Va bene, ciao Giovanni, ciao. Luca si è andato a mangiare, passa al forno, sì, ciao, ciao, salutoni. Anch'io adesso, ciao, mi preparo, a più tardi se coincide, ciao Giovanni, ciao, buona cena. Giovanni! Oh, hey. Sono rientrato. Patricio, chiama lì. Dove? Ehi, cosa c'hai? Dove? E lui? Dove? E lui, Danilitto? Attento, Patricio. Antone? Dove? E lui? Pronti? Pronti a andare dove? Stiamo partendo? Partendo? E lui? Forse è mica il dubbio. Ma sono seduto, sei tu? Ehi, seduto sono. Ma a caso non l'ho perso la notte. Ehi, vediamo se Marchisio entra. Attenzione, Marchisio. Ma io già ne so con chi è andato. Ma è entrato Bannu da stasera. Vuol dire che è già falato, zio. È già falato. Forse sono soletto, no? Sono uscito proprio la signora, sono rientrato, non verrà più nessuno. Allora verrà Battisio, Franco e Luca, vera. Non verrà più nessuno. Veramente Battisio non c'è? Sono entrato, come fai se è Battisio? Io sono entrato, non verrà più nessuno. Avevo tutto chiuso, no? Io stavo sperperando e basta. E ho sentito qualcuno sta chiamando adesso. Adesso va. Sentivo un silenzio invece da qualcuno. Vabbè. Vuol dire che Battisio è rientrato d'altro. Sicuramente, a cosa fare? Non è voluto entrare. Non mi pare, non c'è nulla, no? Ah? Non mi pare, non c'è niente, no? No. Domenica è andata bene, sì. Ma ti comprendo. Se domenica è andata bene. Cosa ne so, dice di sì lui. Che è andata bene. Vedi così, va bene così, avanti. Attenzione Battisio, non vuole entrare oggi, no? No, non è entrato, deve essere, o è arrivato tardi. Sicuramente. Vabbè, lui è quanto io voglio oggi. Sei travaglietti. Allora, qualcosa, un gambino. Abbiamo finito alle 4:20. Con i bambini sì. Sacrificio, non fare to, sacrificio. Di là a me. Vabbè, da. Andate. Ci faremo un altro giorno. Piano piano. Non c'è problema, siamo già, vai. Che andiamo noi, andiamo. Sì, andiamo. La lupa a casa ce l'hai? Cosa? La lupa ce l'hai a casa, sì. Ma ti capisco. Sei rimbomba e non riesco a capirti. Ho detto, se il cane ce l'hai a casa. Ma è vicino a me, non c'è genni. E invece l'altro è giù, così è. E l'altro è la costruina. Forse ci vado sabato a vederlo. Così è proprio anche a lei, il potro, lì si gioca un po'. Infatti. E non sono rugunetto, ma si vede un padrone, giocano con tutti gli altri. Vabbè. È un sacrificio a top, bisogna farlo, dai, piano piano. Sì. Piano piano tocca fare un bel chilometri. Riesci a fare un lungo di pulimira. Peccato che tu avessi avuto il giardino sotto casa e eri già a posto, già sistemato, purtroppo. Non ne hai, peggio per te. Vabbè. Andava così, andava. Che avevo sistemato, dai? Sì, devo attaccare soltanto la stecca dei freni e basta. Adesso domani vernicio quella vecchia che non me l'ha fatta ancora. Di Danuba. Vernicio quella vecchia e ci metto quella provvisoriamente. Va bene, dai. Subito sei pronto a fare la cosa. Bisogna far portare a fare la revisione, sì. Prossima settimana. Già prenotato, hai? Allora, il 24 ce l'ho. Cerca di farlo bene, termina tutto, sia a posto. Adesso in questi giorni, domani lo prendiccio, in questi giorni lo attacco. E me lo tengo già pronto, gli metto tutto quanto in tira. E me lo lascio già pronto, me lo lascio. Sì, prova tutto, prova il freno, va bene. Per il secondo che ti capiti il pignolo non te lo fa passare, per una cazzata nove volte. No, ma ha detto che c'è una signora, cioè, che fa i collaudi e tutto quanto, revisione collaudi fa. Adesso stava già a turno, stanno cambiando, ho capito. Oggi a lei, domani a lui, dopomani sempre a lei e così via. Eia, chi sei? Fra. Non c'eri poco fa. Torradusi, c'è Marino, mi. Marino. No, non attivo, non ascolto, Fra, non ti ascolto, 0.0. Come va, non ti ascolto oggi? Strano. Vuol dire chi c'è di chi ride più basso? Boh, non lo so. Andate, dai, io mi sociamelli, ci sentiamo domani, Marino. Ciao Franco e ciao Marino. Ok, va, mi sono anch'io e chiudo anch'io, sono un po' in ascolto in giro. Bene, ciao, ti ho ben sentito, sono tu in casa la signora, va. Ciao Fra, se mi stai ascoltando, alla prossima, dai. Ok, ciao, sono tu, ti ascolto e cuore che ti fa, ciao. Ok, ciao Fra.